Quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni.